nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Sei un leccaculo di Salvini, sei un grande leccaculo, sei una cosa vergognosa, sei un giornalista del cazzo, leccaculo. Little runaway, I was flying, yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. Lorenzo, vuoi sapere qual è secondo me la frase più bella che ho letto nel weekend? La frase più straordinaria, più significativa? Adesso voi penserete qualcosa magari sulla Grecia. No, ci sarà tempo, avremo ospiti per parlare, tanto non c'è niente che non sapete. Avete visto le maratone televisive, avete sentito Radio 24, di che dobbiamo parlare? Non c'è quasi nulla da dire, diciamo la verità, quasi nulla da dire. La frase più bella che ho letto è un'altra. Molti hanno scritto: beh, è la fine del Berlusconi macio, no? Sarebbe la fine del mito di Berlusconi no, maschio. Secondo me è esattamente il contrario. Cioè, fosse vera quella frase lì pronunciata da una delle olgettine, la mitica, ormai direi anche mitologica, si potrebbe dire, Iris Berardi, all'epoca nei primi anni del Bunga Bunga, minorenne, poi successivamente cresciuta, caro Parenzo, beh, fosse vera questa frase qui, questa roba qui non farebbe che accrescere il mito berlusconiano, secondo me, perché chi l'ha detto che il macio non può subire? Non può subire. Sì, no, ho capito. Sai di cosa fai riferimento? Sì, no, so, perché allora, ho letto anch'io i giornali. Avidamente spero. E ho letto Fatto di questa Quotidiano, cosa che avrebbe dovuto mettere. Avrebbe dovuto mettere. Sì, no, il Fatto sì. Quotidiano ha fatto benissimo, piano, tra l'altro. Insomma, dai, ha fatto benissimo il Fatto Quotidiano a pubblicare il diario piano, della signora male. Berardi. Beh, ma certo, dai, ma assolutamente. Ma è una porcheria. È una pratica normale, perché tu non hai mai subito una pratica nana da parte di una tua fidanzata? No, guarda, non ti piace. Sarò franco. No, non hai mai. Ditemi pure che sono strano, non c'è nessun problema. Ditemi no, pure che no. sono noioso, strano, però no. borghese. Ditemelo no, pure. No. Ti giuro di no. Però il problema è mio, fidati. No, tutti gli altri che telefoneranno, tassisti, commercialisti, notai, architetti, confindustriali, confcommercio, confartigianato, confagricoltura, telefoneranno e diranno: sì, anche noi siamo stati, sono tutto. Io no, ma chiedo scusa. Allora, la frase in questione, inutile girarci intorno, è riportata, Hanno capito di cosa si tratta. Diciamo la frase, ma la frase è una frase normale che si può ascoltare anche alle 18:36. Certamente una frase cruda, per carità, però è una frase normalissima che in un rapporto tra due persone ci può stare. Io dico ci può stare. Non solo ci può stare, ci deve stare. Ci deve stare. Il carico da 90, a mio parere ci deve stare. Fosse vero, altro che Berlusconi macio. Di più, non capisco perché questa cosa qui, cioè il subire una sodomizzazione da parte di un uomo, poi non si sa bene in che modo, naturalmente. No, questo, da parte di una donna, scusa. Da parte di una donna, beh, no, subire, da parte di un uomo. Subire da parte, cioè l'uomo che subisce. Ecco, questo. E la donna che fa, insomma, la frase è questa. Iris Berardi, olgettina, avrebbe scritto, anzi ha scritto in questo diario, non si sa se è una cosa romanzata o vera. Molti la fanno passare per vera, i signori amici del Fatto Quotidiano. Iris Berardi, lo misi in quel posto a Berlusconi e mi disse: fai piano. Questa è la frase, dai, su. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. E qui c'ha ragione. No, è bellissimo. Qui c'ha ragione a Didolfone. È bellissimo, ragazzi. Ma scusa, ma perché? Ma aumenta il mito di Berlusconi dal punto di vista sessuale? Ma sono fatti aumenta, suoi. Aumenta. Se ne frega. Adesso andiamo con la Grecia, dai, dopo questa rottura di coglioni, dopo questa dopo questa roba che riguarda il sesso e Berlusconi, che diciamo la verità è una cosa molto interessante, andiamo con la Grecia. Pare che sia diventata virale questa cosa di D'Alema, no? Che dice che i soldi che sulle banche tedesche, ai greci vanno alle banche tedesche, francesi. Noi abbiamo dato alla Grecia 250 miliardi di euro, ma non per le pensioni dei greci, ma per pagare gli interessi alle banche tedesche, francesi e molto parzialmente italiane. 220 miliardi dei 250 miliardi di euro. Vabbè, poi ci sono quelli, a mio parere, altamente ridicoli, che sono andati ad Atene a sventolare le bandiere rosse, a sventolare la bandiera del trionfo, come se fosse anche un trionfo loro, no? Tra questi c'è il signor Vendola. Signor Vendola, signor Grillo, tanti sono. Il Davide ellenico, senti Vendola. Il Davide ellenico ha sconfitto il Golia teutonico. È un messaggio molto importante. Mamma mia. Poi un altro a un certo punto ha detto Ferrero ha detto Varoufakis centravanti di sfondamento. Poi si è dimesso Varoufakis, centravanti di sfondamento. Bravo sto Varoufakis. Grillo che dice godo. Quindi io sono venuto molto umilmente, perché rasento le piazze, perché non voglio che la gente pensi che sono qua a crogiolarmi nel grande successo. Godo internamente di questa roba della gente, perché c'era piena di gente, pieno di turismo. Grillo contro l'euro, non esiste l'euro. Ma l'euro è un'illusione. È un'illusione, guardate che siamo dentro qualcosa di strano, che nessuno riesce più a capire. Di Battista insiste: l'aumento della mortalità infantile in Grecia per colpa della troica. Fa anche strano che ci si scandalizzi di più delle file, grandi o piccole, davanti ai bancomat, e non dell'aumento della mortalità infantile del 43% negli ultimi anni a causa delle scelte dell'austerità e della troica. Questa è una boiata, pazzesca. Che siano aumentati i morti tra i bambini per colpa delle scelte della troica, una puttanata, dai, su. Sentite questo, adesso vi faccio ascoltare l'inizio di un servizio del TG3 su Varoufakis, cioè sul ministro greco che si è dimesso. È un servizio pazzesco, è una specie, lo dico chiaramente, un super pompino, ma in senso no, in senso giornalistico, cioè una roba, un elogio di questo ministro che si dimette, ma questo manco all'Istituto Luce lo avrebbero fatto. Servizio del TG3, senti. Se n'è andato per aiutare Tsipras a trovare un accordo. Se n'è andato orgogliosamente, come fanno i protagonisti dei film che si sacrificano per far vivere gli altri felici e contenti. Ha un nome così greco che più greco non si può, ma più da contadino o partigiano che da armatore. Di Yanis Varoufakis, ateniese di 53 anni, pochi sanno che è pure cittadino australiano. Sguardo malandrino con effetto micidiale sulle donne, risulta simpatico anche ai più idiosincratici fra gli uomini. A dispetto dello stile informale è un intellettuale puro, economista e blogger. Cioè, hai capito, sì. Cioè, il ritratto di Varoufakis questo del TG3. Sentito. Tutto il resto su questo non l'avevo incredibile, sentito. Incredibile. Però devi mettere anche il signor Brunetta, però, su Varoufakis. Sì, sì, ma sono tutti uniti. Ma abbiamo con noi i lunedì salviniani. Matteo Salvini, buonasera. Buonasera, pensa come si incazza quello là che ti dà del leccaculo. Perché dici? Non ho capito. Eh no, perché mi inviti, ti ostini a invitarmi, io che sono populista, leghista, un po' razzista. Ah, quello un po' razzista, l'ascoltatore all'inizio, vabbè. Tanto c'è l'autostrada A4 bloccata, è totalmente bloccata. Grazie di queste informazioni sul traffico. È colpa di Renzi. Io non ho capito, ma non hai fatto la maglietta della Grecia? No, perché io ho detto che avrei votato no, però Tsipras è un po' un furbetto, Non perché non vuole uscire dall'euro, dici tu? Ragazzi, non puoi avere la botte piena della moglie ubriaca. Tu hai detto, ho non letto... voglio pagare il debito, però sì, insomma mi tengo l'euro, mi tengo l'Europa, o l'una o cosa o l'altra, ragazzi. Ma dall'euro è quasi impossibile uscire, mi hanno detto. Cioè, la gabbia dell'euro, tu stesso dici che bisogna uscire dall'euro, poi però dici, no, da soli è impossibile, non hai... È meglio un'uscita ordinata, coordinata, concordata, decisa a tavolino. L'euro è un pezzettino di carta, una moneta serve come strumento a far star bene le persone, un pezzettino di metallo, un pezzettino di carta, non c'è niente di irrimediabile, non c'è niente di irreversibile assolutamente. Per cui i tuoi figli, tu speri che quando saranno grandi e quando potranno... Che abbiano una moneta diversa, più giusta, poi non so come si chiamerà, però l'euro, lo dice il Nobel Paul Krugman, non Salvini, ha dimostrato di essere stato... un errore, bisogna riconoscere gli errori fatti, magari anche in buona fede. Allora, no, io voglio capire una cosa, i tuoi figli quando potranno maneggiare la moneta, una spero moneta, che maneggino una moneta diversa rispetto a questo euro. La lira. Ma chiamatela Ducato, Fiorino, Sesterzo, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Il Salvinum. Con la lira l'Italia era la quinta potenza economica al mondo, nonostante ci fosse la casta, la mafia, la burocrazia. C'era un po' di inflazione, diciamo. Ma l'inflazione è qualcosa di positivo, l'inflazione vuol dire che paghi cara la roba, perché la roba la vendi e la gente lavora. Se l'inflazione è a zero, perché nessuno lavora, nessuno spende, nessuno compra... Cioè con la lira si stava meglio, questo tu dici? Assolutamente fuori. Beh, questo non lo dice Salvini, lo dicono i numeri. Insomma, adesso i numeri dicono anche altre cose. No, 2002, quando noi siamo entrati in questo fantastico mondo dell'euro, la disoccupazione in Italia era 9%. Vabbè, non dipende solo dall'euro, dai. Il debito pubblico era di 1.300 miliardi di euro, adesso è di 2.200 miliardi di euro. Non è colpa solo dell'euro, se fa caldo a Milano oggi evidentemente non è colpa dell'euro, ma l'euro ha complicato una situazione. Senti Matteo, ma sei andato anche tu lì in Grecia dal Varoufakis, lì a Piazza Syntagma? Ieri era l'unica occasione per stare con la mia bimba in Valtellina, quindi con tutto rispetto per Varoufakis. Ma se no saresti andato adesso, lascia stare la bimba, bellissimo quello che hai fatto una cosa giusta finalmente. Ma se no saresti andato anche tu con quel grande carrozzone, carrozzone Varoufakis. Lì si scontravano due torti. Poi sono contento del no, perché è stato uno schiaffone in faccia alla Merkel, a Renzi, ai banchieri. Beh, a Renzi. Renzi, quei soldi non dovresti essere Merkel. Contento. Ma Renzi non ha preso posizione, la realtà è questa. Renzi non ha preso posizione. Sì, esatto. Però non dovresti esultare, perché non rivedrai mai quei soldi che anche l'Italia ha prestato adesso per essere terra a terra. Io fossi in te non esulterei tanto. Fare, siccome la radio del Sole 24 Ore, nomi e cognomi dei geni, ministri e politici che hanno costretto gli italiani a prestare quei soldi, che è stata una cosa demenziale. Anche i vostri, amico mio. No, caro, ha cominciato il tuo amico Monti. Anche poi i vostri. Detto questo, siccome c'è in ballo qualcosa in più rispetto al prestito, qua senza usare i paroloni si tratta di democrazia, di poter lavorare, di poter andare a farsi curare in ospedale. Allora, palo. Lo schiaffone greco è stato uno schiaffone salutare. Scusate, io domani sono a Strasburgo, sapete di cosa si parla fra le altre cose? Vabbè, ma il Parlamento Europeo, lo sai. Per noi si parla della crisi. Si parlerà della situazione in Burundi, in Cambogia, nel Congo. Vabbè, ma quella è la follia del Parlamento Europeo. Ma che c'entra, dai. Però scusami, Matteo, io voglio capire una cosa. Secondo te con l'euro c'è un futuro da schiavi? No, c'è un presente da schiavi. No, un presente da schiavi e un futuro da schiavi, scusa. Un presente e futuro da schiavi. No, un presente da schiavi e un futuro da morti. Questa è la tua analisi. Ma ci sa come mai fermi tutti, nemmeno i greci però sembrano voler uscire. Fermi tutti. Fanno bene a non voler uscire, perché loro sono mantenuti dall'Europa e da questo euro. Gli italiani avrebbero invece secondo te pagano. D'accordo, gli italiani dovrebbero uscire, ma secondo te i greci farebbero meglio uscire velocemente? Dal mio punto di vista sì, perché se non cambi le regole, non cambi la cornice, non cambierà. Tiri avanti altri 3 mesi, ma non cambia nulla. Coi soldi, sempre coi soldi nostri. Fermo traffico. Assolutamente. Traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Io non vorrei cambiare argomento, Parenzo, però nel fine settimana ho letto un'altra cosa. Un signore del Montana. Adesso vado addirittura nel Montana, negli Stati Uniti. Per trovare sesso. Non c'entra niente il sesso, ti assicuro. Il sesso non c'entra nulla stavolta. Un signore del Montana ha detto che dopo la sentenza della Corte Suprema Americana sui matrimoni gay, lui vive con la moglie, ha un amante che la moglie conosce e vuole il riconoscimento della poligamia. Vuole il riconoscimento della poligamia. Dice, siccome hanno la Corte Suprema ha detto di sì al matrimonio gay, perché non alla poligamia? Ma si può andare davvero verso questa fine, Salvini? Io sono contro, io sono per il rispetto. No, questo lo so, però secondo te si può arrivare veramente alla, cioè una volta, se passasse il matrimonio gay, si può arrivare davvero alla legalizzazione della poligamia o no? Ma spero proprio di no, anche cioè, perché... Cioè, ma è un pericolo possibile? Ma più che per i matrimoni gay, per un portato di certa cultura islamica, per cui si possono avere fino a 4 mogli, il marito può divorziare, appunto. La moglie no, e quindi... Non voglio dare lezioni di morale a nessuno, però non è un futuro che mi piace. No, d'accordo, ma se passa i matrimoni, cioè vuol dire il principio del matrimonio gay? No, non penso, guarda, io contesto lo scimmiottare il matrimonio. Tutti gli amici gay che ho, e che sono tanti, dicono che l'emergenza non è sposarsi, ma è tornare a lavorare e stare un po' tranquilli. Tutti hanno amici gay, capito? Quindi secondo me anche i miei amici gay non Parotto sì. Stia facendo lo sciopero della fame per la legge sulle unioni civili. Quello è ridicolo. Ma è demenziale. Beh sì, soprattutto perché sta poi il governo. Sciopero della fame per la riduzione delle tasse, non per, perché no, quello sono d'accordo anch'io. Cioè uno che sta al governo non può fare lo sciopero della fame contro il fatto che il contro se stesso. Uno si dimette perché dice il governo non è capace di approvare una legge, che poi può essere, ovviamente su questa legge uno può avere idee diverse. Comunque gli Stati Uniti non sempre sono portatori di novità positive, in politica estera. Ma Obama non ne ha azzeccata una che fosse una, quindi non è che il modello americano sia da prendere tout court. Io ho sentito una battuta prima, la posso fare Parenzo? Sono troppo greve secondo te alle 18.50? Secondo rischio me di no. Essere greve, no, ma non secondo è mia tra l'altro, però non dico secondo di chi me è, no. perché la faccio mia. Una delle cose che uscite fuori dal referendum greco è che non dirla, no, la dico. Non dirla, è sulla io culona, vista, è non... sulla culona, no, l'ho vista, non dirla, io l'ho letta ma non dirla, no, la posso dire, la dico, Salvini, la dico, no. La dico, sì. La dico, dai, che la culona risulta chiavabile, che la culona non è mai... non so chi l'ha detta, sarà un po' greve, però è centrata. È centrata, dice. Beh, diciamo la metafora, no? Cioè, l'ateniese, se, l'ateniese no, Salvini, no, che dice mica, che è centrata. No, vuol dire, è centrata nel senso che la metafora è quella che chi è rimasto fregato no, da questa vicenda può essere, no, in teoria. Non occorre spiegare la battuta. La cosa incredibile è che i greci avrebbero teoricamente avuto interesse a votare sì. Perché i greci per continuare per una barca di soldi, ma tanto continueranno a prenderli lo stesso, non ti credo. Penso di sì, per motivi strategici, perché anche lì ci smetteranno gli americani, perché la Grecia per la meno NATO è fondamentale, non bisogna far arrivare i russi ad avere lo sbucco al mare, quindi però per, io mi cioè domando, meglio Putin, meglio Putin dell'Europa secondo te? Cioè meglio Putin dell'euro? Sì. Vabbè, fuori dubbio. Cioè, fuori dubbio. Cioè per te è meglio il rublo dell'euro? In Russia c'è una tassazione che non arriva al 15%. Sì, ci sono anche altri problemi dal tuo amico Putin in Russia comunque. Però sarebbe meglio... Hanno la pena di morte che contro cui io sono molto contrario, quindi da questo punto di vista non cioè, sarebbe meglio... C'è più libertà in Russia che negli Stati Uniti, quindi ho capito. Ma io non voglio fare i paragoni, dico semplicemente che mettere le truppe NATO ai confini con la Russia è da deficienti guerrafondai. No, d'accordo, però... Squilibrato può schierare le truppe NATO ai confini con la Russia quando in questo momento i problemi arrivano da Italia con l'Islam. Sarebbe meglio avere il rublo piuttosto che l'euro? Ma no, guarda, piuttosto che l'euro vale anche il ducato che usa una topolinia, perché è una moneta palesemente sbagliata. No. Cioè meglio Putin di Renzi? Vabbè, su questo non ho dubbio alcuno. Innanzitutto Putin è stato eletto e Renzi no. E poi mi sembra che abbia le idee molto più chiare. Vabbè, è eletto come funziona in Russia, insomma. È una democrazia. Vabbè, però è eletto, ragazzi. Dai. Famosa democrazia russa, certo, famosissima in tutto il mondo. Renzi presidente del Consiglio. Però almeno un libero parlamento lo ha votato, dai, su con sto giochino sempre. È un libero parlamento come quello che elesse Monti, che è ancora senatore a vita. Ecco, la cosa incredibile è che non gli hanno ancora tolto la carica di senatore a vita, signor. Cioè bisognerebbe Monti. Togliere la carica di senatore a vita a Monti, secondo te? Se fossi un paese serio, sì. Domani. Ma cioè per lo stiamo pagando, noi per i disastri che ha fatto lo stiamo ancora pagando. Gli italiani lo pagheranno a vita. Sì, a vita, finché non tolgono i senatori a vita dal Senato, ma non è aria, non è aria. La Fornero dice che non taglierebbe le pensioni in Grecia, invece le pensioni greche non le taglierebbe. Quando sento Fornero mi imbizzarrisco vorresti mettere mano alla pistola, come diceva. No, io sono un pacifista, mi basterebbe vederlo su un'isola deserta a pane e acqua. Pane è carino, pane e acqua, se muore di pane ha fatto strage delle pensioni dei ma si muore mettere becco sulle pensioni dei greci, dai, per favore. No, ha detto che non le taglierebbe in realtà, ha detto ma ha già tagliato tutto il tagliabile. Mi piacerebbe che trovassi al bar uno dei 50.000 isolati preso dati che ancora non hanno né pensione né lavoro. E per che, perché? Perché ti piacerebbe no, un... che almeno gli offrisse il caffè e tornasse sulla terra, perché in un paese civile non starebbe pontificando, ha fatto degli errori, avrebbe chiesto scusa e farebbe altro nella vita. Ma invece non dovrebbe essere nemmeno in televisione, secondo te, a parlare? No. No, dovrebbe aver vergogna e tacere. Senti, ma invece un'ultima cosa riguarda tu, una domanda molto semplice. Tu pensi di poter governare meglio di Renzi? Cioè, io da solo no. Io con la squadra che stiamo mettendo insieme di gente molto migliore. Vabbè, da di solo, Renzi, cioè tu sì. faresti governeresti problema di Renzi, il problema di Renzi è che è circondato da mediocri. Io magari sono peggio di Renzi, ma avrei l'umiltà di scegliere persone migliori di me che si occupassero con più competenza degli attuali ministri dei loro settori. Quindi penso che fai meglio di Renzi. Un'ultimissima cosa invece che mi è venuta in mente adesso è questa. Ho letto nel weekend una possibilità, cioè tu non ti candiderai sindaco di Milano, come hai già detto più volte anche qui, ma è possibile che si candidi il tuo esperto di economia, il professor Borghi? Ho letto questa cosa, è possibile? Ma è appena stato eletto come portavoce dell'opposizione in Toscana, regione Toscana, sì. E dunque? Dobbiamo recuperare i disastri della sinistra, quindi penso che per amor di Toscana e dei toscani assolverà quello che gli elettori ci hanno chiesto di fare. Dunque no. Non è che possiamo fare 6 mesi una cosa, 6 mesi l'altra. Bene, grazie, ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Dai, capiamo le danze dopo, ma io non capisco perché alcuni vengano alla Zanzara, perché voi siete degli stronzi, due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. La Zanzara. Viva l'Italia! Questa è Liberetta intervistato da Roberto D'Agostino, da Dago Spia. Ma non ti ho detto, non a Sabaudia, sì, lo so tutto, so tutto. No, ma tu lo sai, ma non dopo racconterai. Dopo racconterai. No, ma interessa tutto chi ha incontrato, chi non ha incontrato. No, ero a cena sabato sera da in un posto a Sabaudia, non dico il nome, non fa pubblicità. E accanto c'era il tavolo con Liberetta. Sì, ma non è una cosa. Sì, ti sei presentato o no da Liberetta? No, ma è arrivato dopo, ma ha riconosciuto dopo, perché era lì che parlottava con altre persone. E a un certo punto evidentemente sente la mia voce, no? Che ha riconosciuto dallo scazzo che facemmo qui da noi. Sì. Gire fa, oh, ma chi è sto brocio? Mondo, mondo, Dio punisce gli sporchi. C'è sempre la sua foto e il suo numero di telefono, alla stazione Termini di Roma, nei bagni. Ma no, ma sempre. Non è vera questa cosa, dai. Anche lì. Sì, come no? Chiamate ore pasti, Liberetta, 33, eccetera. Viva l'Italia! Ancora. Come va la tua vita sessuale? Beh, c'ho la figa vicino che è inevitabile il trombaggio. Quel cosiddetto Viveretta, sotto le lenzuola, com'è? Sotto le lenzuola tutto, ma sotto il vestito niente. Vorrei far notare che la frase che avete forse percepito era rivolta alla compagna, moglie, con la figa vicino è inevitabile il trombaggio. Ora io voglio tornare però sulla vicenda di Berlusconi, sul diario segreto della signorina Iris Berardi, romanzato o no che sia, veramente per riaffermare questa roba qui. Cioè, in realtà molti hanno interpretato nei giornali, eccetera, queste rivelazioni dell'italo-brasiliana Iris Berardi, all'epoca minorenne, che avrebbe infilato un dildo nel sedere al signor Berlusconi. Questo è quello avrebbe... però ricordiamo che racconta lei. Vabbè, certo, cioè, abbiamo detto mille volte, non ti preoccupare, abbiamo detto mille volte, ma certo che sostiene lei. però anch'io secondo nel me nel mio diario segreto posso sostenere qualunque cosa, però no? Secondo me, ma non c'è dubbio, no, anche no, perché una prova materiale di questa cosa non ci può essere, no? Cioè come appunto, può esserci, a meno appunto, che non ci sia la foto, sicuro ecco, ha fatto la foto signor Berlusca col dildo dietro, eccolo là, a questo non volevo arrivare, uno esatto, può dire qualsiasi cosa, su questo sì, non c'è dubbio, no, in particolare su una cosa però come perché, questa che tu vuoi far passare come normale, no, perché, peraltro, ma assolutamente normale, ecco, no, ma no, ma io voglio rivolgermi ai tantissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio 24, in particolare soprattutto della Zanzara, qui per dire se non è normale per un uomo ogni tanto nel rapporto sessuale con una donna e insomma subire un po' di una... Chi, no, la, chi, la, chi la ama di più, chi la ama di meno, non è normale, chi si fa infilare un pennino, chi altre cose. La penetrazione anale è una roba normalissima. Adesso non vorrei offendere o non vorrei, come dire, no, respingere gli ascoltatori che magari sono con i bambini, ma è una cosa normalissima, è un atto sessuale normale. Cioè, l'uomo passivo, come sarebbe stato il signor Berlusca in questo caso, è normalissimo, è una cosa assolutamente scontata, normale, succede sempre. Se non accade questo, beh, amico mio, ci sono problemi sessuali nella coppia. Ma mi sembra allora l'idea... Adesso tutti dritti, Radio 24, tutti sull'attenti. Cruciani fa una domanda seria. Vai, Cruciani. Oh, intanto sulla vicenda greca dice la sua anche Scilipoti, il quale si fa chiamare oggi, beh, è ritornato Scilipoti, senatore Domenico Scilipoti Isgro. Tu devi sapere che ha imposto alle agenzie di stampa, alla comunicazione, il fatto di essere chiamato anche Isgro, non so perché, che è il suo secondo cognome. Secondo cognome, non lo so, sì, si chiamerà così in realtà. No, ce lo raccontò, ce lo che raccontò. Che dice che ci vuole in Italia una moneta parallela. Sì. Una moneta giusto, parallela. Sì, sì, sì. Una moneta dobbiamo parallela. Oh sì, ragazzi, la russa è capitato nel fine settimana, e stiamo parlando di Ignazio La Russa, ad un raduno di animalisti a Milano, una di queste solite puttanate degli animalisti che si riuniscono a protestare contro l'universo mondo, non so nemmeno per che cosa. Lui, che è amante degli animali, è capitato lì a vedere che cosa bolliva in pentola. Tu dici come mai? Insomma, un La Russa, quello che conosciamo noi, non ci sarebbe mai andato. No. Un La Russa, oggi deputato di Fratelli d'Italia, un po' diciamo marginale nel dibattito politico, lo dico senza offesa, il signor La Russa, beh, va dagli animalisti. Sentite un piccolo assaggio. Mi stavo guardando la proposta di legge e devo manifestare la mia ignoranza totale, grazie, amo gli animali ma non sono un animalista organizzato, per cui esempio non so che cos'è la zoerastia, che cos'è, non lo so, sono ignorante. L'uso degli animali è la pornografia con gli animali. Signor La Russa è ignorante in materia. Senti sugli animali che soffrono nei circhi invece La Russa, Non diamo alibi, cioè, ma addirittura vogliono proibire la possibilità della corsa di cavallo, che so io, e qualunque animale nel circo, ci sono animali che nel circo non soffrono. Pensa te La Russa. Un servizio sui pappagalli, i pappagalli in famiglia li teniamo come li tengono nel circo. No, io sto facendo un esempio, no? Dico, i pappagalli sono tenuti nel circo esattamente come li tengono in famiglia. E anche in famiglia cercano di farli parlare, magari non ci riescono, quelli sono più bravi. Vabbè, ma non è l'esempio calzante, no, i pappagalli. Pensa te, La Russa è passato dal gestire i lince, i mezzi lì, alla lince, cioè agli animali, dai lince di quando era ministro della difesa, ai cani, ai gatti, alla lince, l'animale lince. Ma dai. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio. Chi è la Santa Croce? La? La Santa Croce, ah, ha parlato l'animalista, sì, l'animalista, quella dell'olocausto, sì, quella dell'olocausto, la Santa Croce. No? Sì. Piccola idiota! Davanti a me in ginocchio! La scrittrice! Piccola idiota! Ma perché lei è amante anche della è dominante, secondo me, una come la Santa Croce. Questo non lo sappiamo. Secondo me è dominante, sicuro di quella che questo si mette le maschere nere così e domina l'uomo con i tacchi, sicuro? Non lo sappiamo. 100%, te lo posso dire, 100%. Piccola idiota, davanti a me in ginocchio! Beh, è bellissima questa cosa. Io non ho mai letto un suo libro e chiedo scusa. E chiedo scusa, Isabella Santa Croce. Sì, chiedo scusa. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio. Sì, io leggo prima Dostoevskij dei tuoi libri, però. Però l'è uscita quasi naturale, piccolo idiota, davanti a me. Cioè, in un moto di rabbia, cioè, è uscita la vera Isabella Santa Croce, quella dominante, dominatrice, nera, tutta vestita. Devo rivelare una cosa, però, nella massima trasparenza. Aia. Nei miei, come dire, primi anni milanesi, la direttrice di un giornale, non so se era la direttrice in quel caso, comunque una mia amica che lavorava nel gruppo, credo Rizzoli o Mondadori, mi propose di fare uno di film quegli porno. Incontri al buio, no, film porno, no, non me l'hanno mai offerto, non lo farei mai. uno di quegli incontri al buio per poi con Isabella Santa Croce. Cioè Isabella Santa Croce all'epoca scrittrice dark, di scrittrice cioè, molto ti volevano voga. Presentare no, volevano no, farti accoppiare con lei com'è incontro no, al buio era, questo sono. Lei teneva una rubrica la signora Santa Croce su una rivista in cui faceva degli incontri al buio. Vabbè. No, come si chiama? Blind date, no? Blind date. Sì, gli appuntamenti quelli al buio. Vabbè, al buio, insomma, vabbè, così si dice. Sono, ho fatto una sera con la signora Isabella Santa Croce a pensa cena. A te. Lo sai che a un certo punto non ci siamo più, cioè poi non sapevo di cosa non sapevamo di cosa parlare. Zero totale, zero. Fu pubblicato, non so se qualcuno può andare a recuperarlo, credo su boh, su Cosmopolitan o uno di questi giornali qui. Appuntamento al buio con Isabella Santa Croce. Al buio proprio nel senso che fu un tunnel senza luce proprio, uno fu non proprio può, al buio. Non può neanche guardare l'orario di quando finisce perché è tutto buio. Ah no, magari anche per colpa mia, no? Signora Santa Croce ha dovuto andarmi in una discoteca, scappò. Vabbè. Spettacolare, spettacolare. Allora, giustamente un mio amico, non posso fare il nome, dice... Ma no, fai il nome di tutto, ormai... No, no, non si può fare, non si può fare. Questa roba che ho detto prima sull'uomo passivo, no? Come sarebbe stato Berlusconi nel diario di Iris Berardi, tanto per fare un collegamento. È certamente vero, è normalissimo, è naturale, bello, doveroso farselo mettere in quel posto da una donna. Ma ragazzi, tu hai begli amici. È così, ma è normale, doveroso. Dove, e fa bene questa persona a dirmi questa cosa qua, ha fatto benissimo. Volevo sapere una cosa solamente. Una cosa, sì. Sì, dimmi. Eri depravato o sei diventato depravato? Si è venuto a scoprire sempre durante questo weekend passato, caro David, che i cani possono aiutare a scoprire la prostata. Beh, tu dirai. Sì, a un certo punto però torneremo un secondo sulle dimissioni di Varoufakis. Ma no, sul nuovo ministro dell'economia Ma cosa hai da dire su queste robe qui? Zaccalatos. Ma cosa hai da dire che non sia già stato detto? Sono spaventati. Ma no, nessuno è spaventato, la gente ha voglia di divertirsi, di i ridere. I soldi che non rivedremo no, mai. Non di pensare alla Grecia, dai, su. Peraltro le banche sono rimaste chiuse in Grecia, non è che c'è stata sta svolta, banche chiuse. Appunto, è quello che ti dico. Vabbè, ma infatti le diciamo le cose, non è che non le diciamo. Poi se qualcuno vuole intervenire sulla Grecia, intervenisse pure. Ma insomma, cosa si è scoperto su questa cosa della prostata che è molto più interessante e può toccare ognuno di noi? Che alcuni cani possono, odorando l'urina della persona, attenzione, l'urina della persona, al 97% indovinare, ma questa è una ricerca scientifica, indovinare se tu hai una prostata da curare. Questo è forte però. Beh. La prostata per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal! Sì! O se no, fai altre cose! Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21! Vabbè, dai, andiamo a... Dove andiamo? Diego Milano, vai! Diego! Sì, vedo che siamo ormai passati alla prostata al posto che la Grecia, ma vabbè, ormai tanto... Beh, guarda, qualche legame sì. si può trovare anche lì, sì. Tra la prostata e la Grecia. Sì, comunque, no. vai, intervieni su quello che ti pare, che ti frega? No, niente, l'unica cosa che volevo dirti è che... La questione è questa, tu hai detto che la mortalità infantile aumentata in Grecia è una stronzata, non è no, vero? No, io ho detto i numeri che sono stati dati prima da Di Battista, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. No, no. Cioè l'aumento del 43% negli ultimi anni per colpa poi della Troica, come dire, l'Europa avesse ucciso non so quanti bambini, questo voleva dire. Mi sembra una cazzata questa roba qui, però in politica ci sta pure. Sui numeri in assoluto non Eh no, ma questo è il punto, è aumentata la mortalità infantile a causa del cosiddetto rigore dell'Europa? Ah, io ti segnalo che Barisoni, dalla tua radio, ha detto più volte, citando ricerche, penso di istituti americani o europei, che c'è stato un tasso di mortalità aumentato. Mi ricordo sicuramente nelle persone anziane, non nei giovani, negli ultimi anni. Di quello si sta parlando, ma lascia perdere il tasso. Io sto dicendo che quello che... No, il concetto è che ci sono state politiche sanitarie restrittive che hanno portato a tagli nella sanità che hanno che conseguentemente hanno avuto persone che si curavano di meno e quindi hanno ma qui è una frase che abbiamo prima, io ho criticato una frase a causa della troica dell'Europa, tanto per semplificare, e non solo dell'Europa, Fondo Monetario Internazionale eccetera eccetera, a causa di certe politiche è aumentata del 43% la mortalità infantile in Grecia. Questo dicono i 5 Stelle, ma non solo quelli dei 5 Stelle, tante altre persone. Fermi tutti. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La Zanzara. Parenzo, curalo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao, ciao, ciao, ciao. A un certo punto, durante la diretta televisiva di ieri della 7, per chi l'avesse vista, Mentana se la prende con l'economista di riferimento della Lega, Claudio Borghi, che peraltro è un senese di adozione ed è anche della contrada dell'Aquila, tifa per la contrada dell'Aquila, bravo, signor Borghi, il quale Mentana però dice a Borghi, che fa un po' il professorino a un certo punto, no guardi Mentana che non è proprio così come dice lei, siamo imparati anche noi. Però ragazzi, se facciamo credere che adesso che non c'è stato lo spostamento dei crediti, ma lo sappiamo, l'abbiamo detto in questa stessa trasmissione, abbiamo detto, banche, ci faccia banche, credito è il caso di dire, ci faccia credito del fatto, sì, che un faccio, pochino imparati credito, siamo anche fatto, noi Borghi, non è che cioè noi siamo preparati stanotte perché sappiamo che l'avevamo invitato, un po' lo sappiamo anche noi, siamo al mondo, capito, soltanto per il fatto che ci tocca dare le notizie, abbiamo detto come prima cosa stasera. Sempre a proposito di Islam, immigrazione, scontri televisivi ormai direi quasi scontati, eh? Basta mettere accanto un politico di centrodestra più o meno estremista e un qualsiasi rappresentante delle svariate comunità islamiche in Italia. In questo caso è Gasparri contro un tale che si chiama Abu Abed, il quale per Gasparri aveva il torto di avere la barba. Sentire il vicepresidente del Senato, che non è certo famoso per le sue uscite intelligenti, fare una dichiarazione. Ma come si permette di parlare così? Questo demente! Ma come si permette di dire che uno non è noto per le uscite intelligenti? Ma guarda, ma stia zitto! Ma si vada a fare la barba! Ignorante, dicendo che. Ma come si permette? Ma non si arrabbica, ma si vada a fare la barba! Non si arrabbica, già. Ma come si permette? Lei insulta, io mica l'ho insultata! Tornando seri, ma quali cattive? Ma quali cattive? Scusi, io mica sto qui per farmi insolentire da un barbone. No, ma lei non un vicepresidente del Senato di un'ignoranza così inaudita, penso che nessuno. Ma lei, ma come si permette? Ma si legga il Corano, dove c'è l'apologia degli sgozzamenti. No, mi faccia finire. Ma non è mica possibile. Va bene, Fabio da Cuneo, dai Fabio. Sì, buonasera, io intervengo riguardo agli animalisti e ai vegani. Partendo dal presupposto che... No, beh, aspetta, aspetta, avvicina il microfono meglio, perché sennò non si sente niente. Di che vuoi parlare, Fabio? Non ho capito. Intervengo riguardo ai vegani e agli... Ma che c'è da dire? Che cosa abbiamo detto oggi? No, io volevo dire, io ho già chiamato venerdì. Sì, vabbè, dai, volevo forza. Dire che... Sì, rapidamente, partendo dal presupposto che queste persone dovrebbero proteggere tutte le tutti gli animali, quindi anche i bruchi che diventano farfalle, gli insetti o i topi, sì. Io volevo dire che tutti i coltivatori di verdure utilizzano dei pesticidi. Sì, però devi tu fai qualcosa al microfono e cambi voce, per cui avvicina di più sta... Dai, forza Fabio! Si sente? Sì, adesso sì, vai! Questi coltivatori utilizzano dei pesticidi sulle verdure che vanno ad uccidere tutti i vari insetti, tutti i bruchi che vanno a mangiare le foglioline che poi diventano farfalle e contro i topi danno delle medicine, danno dei veleni per uccidere i topi in modo che non mangino più le radici. Quindi io mi chiedevo, questi animalisti e questi vegani non sono in controsenso a mangiare la verdura? Va bene, questa è la cosa e che ti è venuta da dire. E infatti è una follia. Barbara, provincia di Alessandria, dai. Barbara? Claudio Milano, dai. Claudio? Dai, dimmi, Luciani, forza. Sì, sono un medico urologo, ho visto che ti piace il rapporto anale. No, fermo lì, Claudio. Cominciamo subito a dire cose. Non è che... Volevo sapere quanto resisti con un massaggio anale mentre hai un rapporto orale. No, vabbè, ragazzi, ma non facciamo adesso queste cose qua. Ma Claudio, dai, tu sei pure un medico, sei una persona di un certo livello, non dire strozzate, dai. Qual è il punto? Spiega. Te l'ha detto qual è il punto? No, da noi c'è una scommessa, chi resiste più di un minuto gli paghiamo la cena. Cioè, chi resiste più di un minuto, non ho capito come? Sai cos'è un massaggio massaggio prostatico? Massaggio prostatico, sì, più o meno, non penso che mi sia mai stato fatto, però allora? Allora lo devi provare. Devo provare il massaggio anche prostatico? No. Devi provare il massaggio prostatico, una perché? Cosa di livello superiore. Perché? Perché non resisti più di un minuto. Dopo questo minuto che faccio succede? Bene. Esplodi. Esplodo. Dunque tu dici un minuto. Sì, un minuto per il massaggio prostatico. Sì, se resisti. Scusa, il collegamento con quello che abbiamo detto prima, cioè Iris, sì. Berardi, Berlusconi, diciamo il gusto anche per le persone normali, al contrario di quello che dice Parenzo, per quel tipo di cosa che sarebbe stata fatta a Berlusconi, qual è? Che il massaggio prostatico si fa con un dito nel culo. Ma io adesso non capisco. No, ma è questo per farti spiegare, insomma. Ma non occorreva il professore qui, il medico, per saperlo, diciamo. Speriamo che arrivi il più tardi possibile. È sempre necessario sapere tutto, è sempre necessario. Ma guarda che la gente lo sa, anche qualcuno purtroppo sì, ma non l'ha dovuto ti provare no. Per questioni cliniche, io ho tanti amici. In questo campo ne sa più Parenzo di te. No, ti dico che guarda, un amico che se vuole entrare nel merito, che purtroppo ha dovuto, per fortuna il test è venuto bene, sì. Ha dovuto fare quella roba lì, aveva per una settimana una paura pazzesca prima di farlo. Poi c'è gente come Acurugiana a cui piace, quindi ben venga. Io non ho detto questo, no, io ho detto un altro. Se vi piace così, ragazzi, bello mondo libero. L'esame prostatico, sì. Un conto è il massaggio prostatico, esatto, cioè completamente diverso. È completamente diverso. Professore, perché... lei l'ha fatto il massaggio prostatico, l'ha subito? Ovvio. Ma mentre fa un rapporto orale, sì. è ancora più intenso. Ho capito. Capito Parenzo? Ho capito. Sì, sì, per carità, benissimo. Grazie, prendiamo appunti, guarda, scriviamo qui. Ma tu dovresti prendere appunti su questa materia, sì, assolutamente. Sì, ma vi chiedo scusa se così sono. Se vuoi parlare di Grecia, diciamo, parlare di Grecia. No, non chiedo questo, non mi interessa. Tra poco ne parleremo, abbiamo un ospite internazionale interessante. Vi chiedo non ti preoccupare, questo è un piccolo break che continua. Scusa, no, è un piccolo break. No, Claudio, hai fatto benissimo a parlare, d'altra parte sono stato io a stimolare questo discorso con la vicenda di Iris Berardi e di Berlusconi. Ma poi possiamo fare un commentino almeno sulla Puglia, su Emiliano che fa questo, sì, questo casting grillino. Questo è divertente. Questo è divertente. Facciamolo dopo perché. Ma il fatto, Parenzo, che tu puoi farlo anche da solo il commento, non c'è bisogno che te lo dico io. No. Cioè, a un certo punto dici scusa, non volevo interrompere il flusso la poesia. Non volevo interrompere. Vi faccio la notare una cosa: il signor Emiliano, per inventarsi una cosa alla grillina, deve nominare un certo numero di assessori. Li fa scegliere online. Da un gruppo ristretto di persone che sono i suoi elettori, diciamo, che si sono iscritti, come succede con Grillo, più o meno, no? E fa leggere. Allora, questo qua cosa significa? Uno è uno scimmiottamento, anch'io voglio bene ad Emiliano, ma è una cazzata pazzesca questa roba qui. Gli assessori, vogliamo tornare alla normalità, gli assessori li nomina il presidente della giunta, punto e basta. Persone di sua fiducia, sua diretta responsabilità, tutto il resto, perché li reputa bravi, non perché li reputa bravi la rete. Ma poi sono tutte motivo. Puttanate, questa cosa qua le scelgono in 3000, sono tutte stronzate. Li sceglie. No, pure la delega anche. Sì, li sceglie il presidente, secondo la fiducia che ha nei confronti di certe persone, punto e basta. Invece sai cosa significa questa cosa? Che in fondo ad Emiliano di chi viene nominato assessore non importa nulla, tanto c'è perché lui. È woman show, questo è il punto, cioè la cosa indicativa, questa è una garanzia da un certo punto di vista, ma perché per secondo me sarà un ottimo presidente della Puglia. Il problema è che queste robe dimostrano che per lui gli assessori uno vale l'altro, chiunque ci metti lì è la stessa identica cosa, perché se le devono scegliere 3000 persone, dai, su. Yeah. Allora, Marco da Pordenone, vai Marco. Eccomi qua, ciao. Dimmi, dimmi. Da, no, non da Pordenone, da Sacile, perché volevo prendere. Sacile, bene. Ottimo. Ascolta, paese volevo... stupendo. Paese stupendo, vero? Immagino. Sì. So che tu lo conosci. Ci sono anche, anche donne molto belle, sì. Sì, Una in particolare, dai Marco, dai, su, non mi fare parlare, dai, forza. Dai, scusa, hai ragione, hai ragione. Ascolta, niente, io volevo parlare di due personaggi che sono spesso protagonisti della vostra trasmissione. Uno è Papa Francesco e l'altro è Salvini. No, protagonisti perché? No, uno è protagonista, vabbè, l'altro no, insomma. Okay. Va bene, nell'informazione. Vabbè, allora Papa dai. Francesco. Allora, secondo me Papa Francesco potrebbe essere benissimo il prossimo segretario federale della Lega Nord. Perché se per quattro motivi non dire stronzate, principale. Che vuol dire? Dai, no, insomma. Dai, lasciami dire sta stronzata. Allora, la prima cosa è l'immigrazione. Salvini dice aiutateli a casa loro, la Chiesa va a aiutarli con i missionari a casa loro. Salvini dice non li voglio a casa mia, nello Stato del Vaticano non c'è un immigrato. La seconda motivazione, i matrimoni gay. Papa Francesco dice di rispettarli, Salvini dice di rispettare i gay, però tutti e due sono contrari al matrimonio gay. Terza cosa, l'Europa, lo Stato del Vaticano non è in Europa, come dice Salvini. Quarta cosa, poi proprio l'emblema, la cosa più emblematica, qual è l'unico Stato veramente indipendente della Repubblica, indipendente sul territorio italiano? Indipendente perché l'Italia, perché l'Italia è un paese schiavo dell'euro, dell'Europa, eccetera. Sì, Marco, però tu hai elencato delle cose. Secondo me invece tra Papa Francesco e Salvini c'è una differenza, come dire, abissale, anche nelle cose, nel rapporto con l'immigrazione, eccetera, eccetera. C'era Barbara dalla provincia di Alessandria, vai! Pronto, pronto, mi senti? Sì, vai alle Barbara, dimmi. Molto bene, a proposito della poligamia, non conosco le radici della parola, quindi non so se, so che esiste il poligamo, ma non so se può esistere la poligama. Non lo so, in certe società no, dove c'è la poligamia è solo maschile, mi pare evidente, no? Beh, a me non è, per me non era così evidente, evidentemente. E comunque volevo dire che se si parla di poligamia anche al femminile, io l'appoggio. Ma no, Barbara, dai, ma lei è sposata ora? Attualmente? Io non ho mai avuto nessun marito, quindi. E come mai? Appoggio l'idea. Appoggio perché l'idea, non si è mai sposata? Scusa. Tanti avrà avuto tanti amici. Scusa, perché insomma. Non ti sei mai sposata? Non mi sono per mai. Per carità, sposata. Hai fatto benissimo, eh. Sì, ma guarda, non sono convinta che il matrimonio sia una grande idea in generale, insomma. Quindi io appoggiavo l'idea non per me stessa, ma per la possibilità. Ecco, voglio dire. Ma cosa vuol dire per la possibilità? Ma allora, se tu uomo puoi avere quattro mogli, quante decidi, non vedi tu, troverai giusto che una signora... No, ma per fortuna queste cose qui non verranno mai introdotte, perché quello che dice questo signore americano del Montana, questa stronzata pazzesca, siccome è stato introdotto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti il matrimonio omosessuale in tutti gli stati, allora io chiedo di essere sposato con due persone, è una stronzata, perché non si arriverà mai a questa cosa qui, cioè non si arriverà mai, chiaro? Andiamo a Rosolino Pavia, dai. Sì, buonasera. Dimmi. Buonasera, pronto, mi sente? Sì. Sì, è il tuttologo Cruciani? No, non sono tuttologo, faccio il conduttore di un programma radiofonico, se non la disturba. Ah, ho capito, no, io preferisco chiamarla tuttologo. Volevo solo dirle, intanto complimenti per il selezionatore musicale. Va bene, Rosolino, andiamo al sodo, dai, forza, che è tardi, dai, sono 19.50, vai. No, selezionatore musicale. Va bene, d'accordo, abbiamo capito, vai. Che lei se la faceva addosso quando c'erano queste musiche, comunque esistono musiche anche più recenti, chiudo la parentesi. Va bene. Ecco, volevo dire, lei è l'emblema del, come dire, del fame nel mondo, nel senso, se lei è il rappresentante... Cioè un io non sono il rappresentante di nulla, cioè io non sono il rappresentante di niente. È un sex symbol, uno molto desiderato. Ma chi l'ha detto questo qua? Cioè, forse è lei che mi desidera, forse è lei che mi desidera. Sì, forse sì. È lei che vorrebbe fidanzarsi con me. Sì, come no. comunque senza, secondo me ti vuoi fidanzare con me? Secondo me ti vuoi fidanzare con me? No, no, no, non ho nessuna intenzione. Secondo me sì, segretamente ti vuoi fidanzare con me. Sono quasi certo. Va bene, va. Sì, va bene, va bene. La saluto cordialmente. Ma che cosa volevi dire? Scusa, Rosolino, non ho capito. Rosolino di nome? Fede, venerdì scorso da noi sulle olgettine erano prostitute. Ma ricattare di che? Che erano prostitute si sapeva, ma perché venivano indotte alla prostituzione delle prostitute? Ricattavano di che cosa? Lo dicono loro, che erano prostitute, l'hanno scritto i giornali. Ma voglio dire, non è la prostituzione, è una professione. La più vorace, Ruby. La più vorace di tutte, chi è? Beh, devo dire, guarda, senza alcun dubbio, la mitica Ruby, perché tanto di cappello si fa per dire, perché leggo sui giornali, leggo nelle presunte intercettazioni. Sapete quanto prende di pensione Emilio Fede? 8.590 euro. Oggi guadagno 8.000, solo qui mi è arrivato da parte dell'Impigi, 8.590 euro. Attenzione, oh, dopo 60 anni di pensione che facciamo? I retorici che dicono, 8.000 guadagni, e fatevi il culo per 60 anni come lo sono fatto io. E una volta pagate le spese, eccetera, eccetera, rimangono 1.000 euro. Sono tanti 8.590 o no? Beh, sai, quando mi pago la benzina, quando mi pago il leasing della macchina, quando mi pago da mangiare, quando mi pago l'affitto, perché io ho dovuto lasciare la casa che era un benefit che la Mediaset mi aveva dato, sono passato affittuario e quindi pago quello, pago la luce, pago il gas e aiuto persone, mi rimangono netti 1.000-1.500 euro al mese. Allora andiamo in provincia di Monza, Davide, vai. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, dimmi. Volevo dirvi una cosa, voi provate a invitare un esponente del Movimento 5 Stelle da voi, provate veramente a sentire quello che ha da dire a questo paese. Guarda, non quello che abbiamo sentito è già molto. No, ma non ho capito Davide, a cosa ti riferisci in particolare? Mi riferisco in generale. No, ma lascia perdere, abbiamo invitato sempre un sacco di gente del Movimento 5 Stelle. Ma dai. Ragazzi, ma non li ho mai sentiti da voi, ragazzi. Ma non che è venuto Gianrusso? C'è Gianrusso, è venuto un giorno sì e l'altro pure, per fortuna. Da voi alla Zanzara, non a Radio 24. Ancora, insisti, qua. Gianrusso. Russo, il senatore Gianrusso, l'hai mai visto? No, una puntata. Professor Becchi, altre mille persone, noi italiani, tutti gli italiani, anche Parenzo, tutti quanti abbiamo il dito in culo. Ce l'abbiamo da quando siamo nati. Io ho 32 anni. Aspetta, sono nato con un debito da 20 milioni di lire, oggi è 33.000 euro. Ah. È un debito pubblico tutto nostro, quindi vabbè, noi ci abbiamo già il dito in culo. E niente, volevo dire questo, tutto qua. E poi una cosa a Parenzo, ho sentito dire che il suo stipendio è proporzionato e vaffanculo che si piglia. Oggi ho deciso di aumentare lo stipendio, volevo mandarlo a fare in culo. Ma perché lo vuoi mandare a fare in culo? Perché Parenzo non mi trova d'accordo. Cioè lui parla e io sono completamente all'opposto di quello che dice. Meno male. Lui, secondo me, vabbè. Mi sento meglio anch'io ora. Vabbè, perché? Beh, scusa, per forza così. Dopo quello che ha detto, per forza sono contento che la pensi perché all'opposto cosa? Mio. Sono perché contento. Perché cosa? Cos'è sono che contento detto che la pensi all'opposto mio. Mi preoccuperei io se uno come lei la pensasse. Ma perché come che me. Ha detto? Scusa, non ho capito. Cosa ha detto di strano? Il dito, il dito. Ma il dito che cosa ha detto? Così, ha detto Parenzo. Il debito pubblico che abbiamo, non ha Parenzo, detto una cosa. Sono felice di non pensarla come lei. Perché fai finta di non vedere? Sono felice di non pensarla come lei. Ma io sono lei contento. È un famoso dito con la sabbia, però anche aggiungo. Tutti noi abbiamo con la sabbia, la marmellata, come cazzo. No, il suo è con l'anello, guardi. Il più fastidioso. Ma perché non è vero, non è vero che abbiamo tra me e te, Parenzo, ti ha il culo chiacchierato, non sono io, capisci? Cioè, se si va in Veneto, guarda che veramente è vera la storia che c'è il culo chiacchierato. Perciò non diciamo stronzate, non mi dire che io sono sabbia, non mi dire queste cose qua. Fermi tutti, la mia era una metafora, parlavo per parlare. Ma infatti in questo caso c'hai ragione, non capisco perché Parenzo non è d'accordo sul fatto che comunque il dito ce l'abbiamo dietro per il debito pubblico che abbiamo e che grava su ognuno di noi. Bruci La Zanzara. In collegamento speciale da Favignana, credo, dove si trova in vacanza, non so per quale motivo, il professor Edward Luttwak. Buonasera, professore. Sì, buonasera. Come andiamo? Cosa fai a Favignana, prof? Sono qui, c'è un piccolo incontro, c'è un famoso professore di Trapani, un giovanotto che insegna l'università di Pechino addirittura. Sì. Senti una cosa, ma hai sbagliato previsione? Con chi stai a parlare, professore? Sì, il pesce. Sì, allora, sono qui per... Lui organizza piccoli incontri. Sì. E sono qui per questo e anche per andare... Sì. Oggi sono uscito con un pescatore a Favignana. Sì, capito. Con degli amici abbiamo preso dei pesci e li abbiamo cucinati. Non senti la crisi tu, professore, vero? No. Io sento la crisi, sì, la crisi, ma... Ho imparato una cosa importantissima. Sono uscito con un pescatore di Favignana. Sì, e ho scoperto che non solo questo pescatore con una piccolissima barca deve pagare tutte le varie tasse e così via, in più ogni periodicamente, ogni due anni, qualcosa così, sì, deve, la capitaneria di porto gli impone che deve fare un'ispezione della radio, per cui lui deve pagare 120 euro per far venire un ispettore da Trapani, il quale gli fa pagare 120 cosa e che viene a vedere due barche alla volta. Viene due barche alla volta, potrebbe ispezionare 50 barche, devono aprire la radio e dire pronto, capitaneria, dicono sì, bene, la radio funziona, invece ne vede solo due. Cioè, abbiamo uno stato greco in Italia, c'è lo stato inutile che fa vessazioni in Italia, c'è uno stato greco, cioè pieni di gente che sono pagati e non fanno niente e poi vanno in pensione. Sì. Ma siccome non fanno niente, non c'è neanche come i vigili di Palermo, gente così, che quando vanno in pensione nessuno se ne accorge perché non ha mai lavorato. Quindi uno stato greco c'è anche in Italia, ma in Italia c'è anche gente che lavora. Vabbè, questo non c'è dubbio. Scusi, poi saluto. In Grecia il numero di persone che lavorano è molto basso. Ma c'è anche quindi la Camusso. Vogliono l'Europa e vogliono che sia l'Europa per pagare tutti questi dipendenti pubblici che non lavorano. Scusi, ma lei va in vacanza? Di Palermo, tu immagini che lì tutti gli impiegati italiani sarebbero i vigili di Palermo, cioè non ne vedi uno che lavora. Cioè i vigili poi di Palermo... Si rivolge a Singapore e dice pagatemi soldi così posso continuare a pagare i miei dipendenti pubblici che non lavorano. Scusi, professor Luttwak, ma lei i vigili andrebbe di Palermo... mai in vacanza con la Camusso? Lei, ma lascia perdere la Camusso. No, fammi capire. I vigili di Palermo sono particolarmente arrabbiati per le cose che sta dicendo lei. Lei sta non dicendo... so cosa sono, ma io sono stato a Palermo per venire a Favignana, sono passato a Palermo, sono andato in automobile da Bagheria al centro di Palermo, sono andato dal centro di Palermo all'aeroporto, c'erano ingorghi stradali e non ho visto un solo vigile, i vigili saranno invisibili, i vigili di Palermo, però devono essere pagati in euro invisibili. Capisci? Allora, ho capito tutto. La differenza è che in Italia c'è gente che lavora, c'è gente che lavora in Sicilia come c'è gente che lavora in Friuli e in Grecia no. E i greci, se tu vai, la Grecia è un paese pieno di disoccupati e pieno di extracomunitari che lavorano. E capisci? E oggi la falsa compassione sarebbe di dire facciamo l'Italia paese, facciamo la mediazione. L'Italia fa la mediazione fra questi cattivi tedeschi e i poveri greci. E questa è una falsa compassione. È come l'uomo. Il figlio di 35 anni che rimane a casa, non va a lavorare, è falsa compassione dargli la minestra. La vera compassione è di non dargli la minestra, così esce e va a pulire i gabinetti nel posto dove oggi c'è un marocchino. Va a pulire i gabinetti perché il lavoro che apprendiamo, mentre il Papa pensa che ogni forma di lavoro è negativa perché deturpa la natura, io vado con la filosofia asiatica, cioè? È importante lavorare, come in Giappone è importante lavorare. Scusi professore, se lei è primo ministro o pulire i gabinetti, la cosa importante è di lavorare bene. Lei mi sta dicendo che secondo il suo augusto parere in Grecia non fanno un cazzo praticamente, cioè... No, dico solamente che ci sono, per esempio, c'è un'industria turistica in Grecia. Vabbè, dove vai lì, sì, si alzano la mattina, ti fanno il caffè, puliscono la stanza, sì. Ci sono greci che lavorano, ma il numero di greci che lavorano è molto basso. È molto basso, è sì, molto basso. Dunque, che cosa bisogna fare con la Grecia? Portarla alla fame, lei dice. Bisogna esercitare vera compassione. E la vera compassione con la Grecia è di dire: non più crediti, dovete lavorare e basta, non avere più crediti, sì, non vi diamo più crediti, o dovete cominciare a lavorare, perché come sai, sì, tutti sanno, lo standard di vita in Grecia è aumentato moltissimo dal 2004, da quando sono entrati nell'euro, non perché hanno prodotto di più, sì, no, hanno prodotto di meno, ma perché hanno accumulato debiti e attualmente vogliono continuare a accumulare debiti. Quindi io sono Mario, sono a casa, sono a letto, non rifiuto di alzarmi, voglio che mi porti la pizza, mi faccio portare la pizza a casa e accumulo debiti, e chiunque aiuta questa persona, sì, dargli più prestiti, così può continuare a non alzarsi, non lavorare, sì, è un criminale. La falsa compassione, sarebbe assurdo che l'Italia... Ho capito benissimo, ho capito, esatto, benissimo. Però, professore, esatto, però scusi, questo Varoufakis oggi si è dimesso, lei non ha nulla da dire su questo Varoufakis che viene esaltato dalla sinistra? Varoufakis, sì, guarda, Varoufakis non è un mostro, come la Merkel non è un mostro. Varoufakis è un accademico, è una persona che, simpatica, è stato un bravo professore, scrive dei libri ben quotati. L'unica cosa è che lui si divertiva a fare ministro delle finanze. Capisci? Si può dire che chiunque fa il governo deve soffrire. Capisci? Tu hai il potere, potere difficile esercitare. E lui si divertiva, lui faceva grandi dichiarazioni, per esempio, come sai, nella campagna adesso, sì, ha detto che gli europei che vogliono essere ripagati sono terroristi. Terroristi, sono terroristi, sì, ha detto che sono terroristi. Cioè, io ti ho prestato 50 lire, tu te le sei mangiate, tu vieni da me e mi chiedi ancora 150 lire. E io dico sì, però questa volta devi andare a lavorare, devi fare qualcosa, vieni, sì, nel mio orto, raccoglimi un po' di meme, non so cosa. E tu dici, tu sei un terrorista. Però si è dimesso. Ma lui non è che lui è un mostro, è semplicemente un professore simpatico che si divertiva. Beh, un giorno, una specie di... Lui si divertiva, faceva 3 dichiarazioni al giorno alla stampa, 3 conferenze di stampa e 1000 dichiarazioni. Cioè, se ne fotte. Sì, ma però sì, telegenico, a certe donne gli piace. Comunque pare non di è sì, un pare mostro, di semplicemente sì, una persona che si è divertita. Varoufakis è un clown, un clown. No, non dico che è un clown. Guarda che a me personalmente la teoria dei giochi mi interessa molto, è una teoria interessantissima. E fra l'altro, no, veramente è una teoria, sì, economica molto interessante, che ci ha rivelato nuove cose. Lui non ha creato questa teoria dei giochi, però è praticante, ha fatto un libro valido, non è né un idiota né un mostro, semplicemente una cosa che si è divertito nel gestire la crisi greca e non c'era il diritto di gestirla. Abbiamo una macchina lì in fondo, dove la può portare? C'è la mia donna. Che macchina ha, professore? No, niente, avevo noleggiato una Jeep qui da Pietro. Ha noleggiato una Jeep. Sì, ecco, sono contento di dire a tutti gli ascoltatori, guarda che a Favignana, io ho visto cosa vuol dire il lavoro a Favignana. Beh sì, la gente lavora, c'è dubbio, però. Guarda che la Sicilia... La Sicilia è considerata la Grecia... Ha aspetti tragici, però c'è anche un posto come San Vito Lo Capo, dove Palermo abbandonato. Poi vai in un'altra località siciliana e non trovi un pezzo di carta per terra. Arrivi a Fiovignana, sì, non c'è dubbio, dove ogni giorno riescono a... Tutte le complicazioni. Però scusi, professore, adesso lei è un po' concitato. No, ma ho capito benissimo, ci sono pezzi. Non sono concitato, dico che l'Italia c'ha alta efficienza, non solo nel nord-est, ma anche dovunque. Ma anche in Sicilia, certo. Però, professore. Esatto, ma sono tutti handicappati da questo stato vessatorio. Sì, ma quello non c'è dubbio. che vi porta via. Però la Sicilia, tasse, la Sicilia è considerata un po' la Grecia d'Italia, c'è cioè un posto dove ci sono un sacco di debiti. Quasi... Esattamente, giustamente così. Il governo regionale siciliano dovrebbe essere commissariato. Bombardato. È un governo che ha un numero enorme di dipendenti che non fanno niente. Bombs, la Sicilia è come la Grecia, fra l'altro è insolvente. È insolvente, sì, è insolvente. C'è un enorme numero di dipendenti che dovrebbero essere licenziati domani mattina. No, anche ieri direi, anche ieri. Ma i maggiori difetti della Grecia, per esempio questa cosa delle pensioni, so che lei è molto caldo su questa cosa dei greci che vanno in pensione, anche se in realtà molte cose sono cambiate però. Cioè i difetti... Esatto, allora guarda, se tu guardi le statistiche greche, vanno in pensione dopo i tedeschi. Sì, però? Eppure quando vedi, queste sono statistiche che pubblicano, sì. Mentre tu invece guardi i conti della IMSS, l'IMSS greco, tu vedi che la percentuale di tutte le spese pensionistiche coperte da contributi, cioè dagli operai stessi, l'impresa stessa, è bassissima, è sotto il 50%. In un sistema pensionistico in equilibrio, quasi il 100% dei contributi sono, le pensioni sono coperte dai contributi, mentre invece vedi che è la metà, o meno la metà, non mi ricordo se 47% o una cosa così. Vabbè. Questo indica sì, che loro vanno in pensione senza avere i fondi per pagare le pensioni. Questo è quello che indica, cioè la percentuale. Maestro, dove sta andando? Dove sta andando lei? Non si vanno a battere insulti in giro, guarda la proporzione di tutti i costi pensionistici coperti dai contributi. Vabbè. Quando i contributi, questo vuol dire che l'operaio, l'imprenditore hanno messo 3 euro e hanno diritto di avere 3 euro di pensione. Ma se tu dai 3 euro di pensione mentre i contributi sono 1 euro, allora vuol dire che stai prendendo la gente in giro. Senta, professore, a me non ho capito una cosa, gli italiani, i politici italiani che sono andati là a fare il tifo per Tsipras sono ridicoli, Grillo, sono ridicoli? Guarda, loro hanno appoggiato l'irresponsabilità. I greci, capisci, adesso i greci hanno mangiato e bevuto, a spese hanno accumulato debiti. Il debitore dice ripagami, loro dicono no, non ti ripago, però devi darmi ancora i soldi. Quindi sono irresponsabili. Chi è andato in Grecia per applaudire l'irresponsabilità si è autodefinito irresponsabile. E la Merkel come la definisce lei? La Merkel è una specie di fantasma immaginario. La Merkel, fra l'altro, è moderata, perché se tu vedi nelle posizioni, il primo ministro spagnolo, portoghese, irlandese sono molto più duri di lei, finlandese. Merkel è, infatti in Germania è molto criticata perché non è abbastanza dura con i greci. Esatto, è molto criticata. E Renzi? Renzi inesistente? Guarda, Renzi tutti sanno ha avuto buona volontà, cerca di fare, ma questo suo rifiuto di fare una squadra, di prendere politici forti, duri e difficili da gestire, fare una squadra di cavalli forti, e invece di avere una squadra debole, questo è diventato molto costoso. E dunque Renzi ha una squadra molto debole. Poi c'è la necessità per la Mogherini di dare dimissioni, perché l'Europa ha bisogno di un ministro degli affari esteri che gestire tutte queste cose, e lei continua a essere esclusa dalle riunioni importanti. Che può succedere? Però deve dare le dimissioni, così che crea un enorme... Quando Hollande e Merkel si incontrano con Putin senza la Mogherini, e la Mogherini non dà le dimissioni, lei sta distruggendo l'autorità di questa posizione. Allora, professore, un'ultima cosa. Mi ha fatto emozionare una frase che lei ha detto nei giorni scorsi, cioè quelli che attaccano, gli islamici che attaccano l'Islam, l'ISIS, gli islamici che attaccano l'ISIS, lo fanno perché in realtà l'ISIS svela il vero volto dell'islamismo, è così? Guarda, l'ISIS ogni volta che fanno qualcosa citano il pezzo di legge islamica che prevede questa cosa. E molti comportamenti sono uguali. In altre parole, se tu sei un filippino e fai un servizio religioso a Riyadh, ci sono 2 milioni di cristiani in Arabia Saudita, più o meno, molti filippini. Cioè, tu fai una messa in un scantinato di Riyadh, ti beccano, ti picchiano quasi a morte, ti portano via i tuoi risparmi di anni accumulati, poi ti deportano a casa. Se sei fortunato, e allora? Se sei meno fortunato, ti picchiano a morte. Quindi in realtà quello che c'è, quello che ISIS fa è di applicare la legge islamica e fare un video e farlo vedere. Gli altri non fanno il video, loro fanno il video. Uno, due, è giusto, tutti possono dire che applicano la legge islamica nella forma più integrale. Più integrale, è vero, però è sempre legge islamica. Sempre legge islamica. Legge islamica è come, non so, in Italia ci sarebbe l'adulterio o pena di morte. Loro applicano la pena di morte. Però la legge c'è e questo ha un impatto. Va bene, grazie professore, la saluto, buona serata. Saluti, ciao, grazie. Ciao, ciao. Dai, non rompere i coglioni, Cruciani. La Zanzara. Allora, dai, Antonio Milano, vai. Sì, pronto? Dimmi, dimmi. Sì, Fabio Milan, volevo salutare anche la Valletta che è lì a fianco, no? Il buon, come si chiama? Parenzo, no? Il gigante del pensiero. Buonasera, buonasera Pigmeo, buonasera. Buonasera, buonasera, no, ma lei è proprio un gigante. Io... Buonasera Pigmeo, buonasera. Ma guardi che io non so, lei pensa che io sto ironizzando, ma per niente. No, neanch'io sto ironizzando, ah, no, Pigmeo, no, del pensiero. Io, no, mi spiace perché io proprio la considero un gigante del pensiero. Io pure. Paragonabile anche ai grandi filosofi, cioè, anch'io proprio... un grande pigmeo, il pigmeo, sì, del bagno, il maestro, si chiama. Il maestro dello scontato, il maestro, sì, dello scontato, sì. In ogni discussione, in ogni qualsiasi argomento mi accenda lei una luce. No, allora no, no, no. Quando io voglio sentire qualcosa, sì, di scontato, mettiamo sulla Zanzara. Io alle volte dire... o tiro l'acqua, no, o sento lei, dire, in questo caso. Ma questo dipende. devo dire che, dimostra il fatto che il suo lavoro lo sa fare bene. Perché è coadiuvato dall'altro, come si chiama? Mio nonno in carriola, sono Cruciani, dai Antonio, sì, forza, sì, dai. Sì, Cruciani che invece fa il contraltare, no? Fa poi il finto frocio, non si capisce bene come... Il finto come poi... frocio. Sì, il ma finto, sì, adesso esaltare, addirittura adesso uno si fa mettere un fallo nel culo, diventa... Ma perché lei non ha mai praticato questa cosa con sua moglie o con la sua fidanzata? No, assolutamente, va bene, io... Lei non si è mai fatto mettere niente dietro? Ma perché sì? Assolutamente sì. Beh, cazzo, vedi, vi siete sempre da imparare nella vita. Dai, poi un altro ha ragione l'ascoltatore. Ma per gioco, ma qual è il vostro problema? Non ho capito. Che no, per... ma guarda, cioè, ma se è un problema, ma se voi fate sesso in maniera normale, in maniera regolare, in maniera tradizionale, ma mica è colpa mia, è un problema vostro. Se non avete fantasia, è un problema vostro, mica mio. Fantasia. Ma che c'entra? Ma lascia perdere, però, a farsi sodomizzare. Se ti diverti così e lo dici anche alla radio, va bene, figuriamoci. Ma che vuol dire farsi sodomizzare? Dite delle cose assurde. Questa roba qui, ma, per carità. Ma perché? Non ho capito. Qual è il problema? Qual è il problema? Non è un problema. Ti piace così, va bene, benissimo. Non ho capito, Antonio, cosa c'è di male? No, ma il problema è, vedi, io le rispondo. Come ha risposto lei? Lei mi ha detto, se non avete fantasia, io le dico, se lei per godere deve arrivare a farsi... Ma chi ha detto questo? Ma chi ha detto... A parte che non ho parlato di fallo. Non ho parlato di fallo. Ho parlato di un'altra cosa. Sì, ma allora perché lei pensa che uno non si fa mettere un dito nel culo? Non ha fantasia. Se non avete fantasia... Secondo me, se uno non ha provato una cosa del genere, non ha provato nulla nella vita. Sì. Io la penso così. Poverino. Fermo lì. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Pieno di luoghi comuni, Cruciani. Sei un luogo comune fatto persona, eh? Allora, andiamo a Verona, Biagio, vai. Ciao Cruciani, sono Biagio. Dimmi. Volevo solo farti i complimenti per riuscire a tenere uno come Parenzo in trasmissione. Perché? Che capisce cosa serva e dice cose scontate, inutili. Poi? I complimenti a te. Vabbè, non me ne frega niente dei complimenti. Che volevi dire poi? Niente, che Parenzo dice solo cose inutili, commenti, battutine, non so a cosa serva, non capisco a cosa... C'è in tanti che si chiedono a cosa serva quella persona lì in trasmissione. No, ma niente. Quella persona lì. A nulla. Alberto da Cesena, vai, Alberto. Buonasera. Dimmi. Cruciani, salve Parenzo. Vai. Allora, io vorrei solo ricordare una cosa. Nel 2010, sì, fu messo in croce Marrazzo perché andò con un trans, no? avevo un palo da 22-23 nel culo ogni tanto, va bene. Berlusconi, in stesso periodo, perché Iris Berardi parla dello stesso periodo, lo metteva a Berlusca, non era un dito, era un dildo, lo sa anche lei, dildi. Secondo i racconti della signora Berardi, Vabbè, comunque, guardi, Fede l'ha già messo, era un partito da cene eleganti, sono diventate prostitute. Una volta si ricorda, erano cene eleganti. Chissà perché adesso sono... Ah, erano prostitute, va bene. Quindi questo lo prendeva nel culo anche lui nello stesso periodo. Ma non è che lo prendeva, secondo un racconto della signora. Guardi, è inutile che ci mettiamo. Vabbè, secondo la Iris Berardi. Secondo questa Iris signorina Berardi, Iris Berardi. Vabbè, lo prendeva anche lui. Quindi, non tanto ognuno fa quello che gli pare con la sua roba, per carità. Non allora... siamo così bigotti. I suoi cortigiani, pappagalli tipo la Santanchè, la Biancofiore, all'epoca dissero: ma il raffolo per noi, invece il nostro è un trombatore, va solo a donne. Per carità, erano donne, ma con dei pali da 22-23 anche loro. Quindi no. Io vorrei che questi qui chiedessero scusa a Marrasso. Tutto qua. Cioè, scusa Marrasso, cioè, una telefonata a Marrasso. No, Alberto dice: siccome quelli di centrodestra se la presero con Marrazzo perché dicevano scandalo da recontranza, adesso è uscito fuori che anche Berlusconi sembra che amasse il sesso anale, però passivo, sembra. E allora dovrebbero chiedere scusa a Marrazzo. Mi sembra un po' ardito, un ragionamento ardito, un po' ardito, cosa. Nicola da Bari, vai Nicola. Sì, pronto, buonasera. Apro e chiudo una piccolissima parentesi. Io stimo Arenzo, e non è una battuta, non sto scherzando. Va bene, e non Nicola, riesco grazie. a capire perché tutta sta gente ce l'ha con Parenzo. Comunque, vabbè, un piccolo. Vabbè, allora, piccola minoranza. Io volevo parlare della mia esperienza, insomma, di questa. Della Grecia? In Grecia? Esperienza in Grecia la sua? No, in Grecia, a Bari, non in Grecia. Cioè. Del piacere che si prova, io sono andato oltre il massaggio prostatico, cioè per me oramai è una cosa banale. Sì. Questo apprezza Parenzo, il signor Nicola da Bari dice che è andato oltre il massaggio prostatico ed è un estimatore di Parenzo. Vediamo un po' fino a dove arrivi, però, Nicola, vai. No, però le cose non sono correlate, cioè, ecco, bravo, cioè. Io le ho messe insieme comunque, lui no, dice non sono correlate queste sue abitudini. Va benissimo, mi permetta, Cruciani, è una sua deformazione, insomma, professionale, non sono correlate. Non so quanto possa esprimermi dettagliatamente nell'esplicazione. No, Nicola, raccontaci come sei andato oltre. Non ho capito in che modo sei andato oltre il massaggio prostatico. Scusateci, se alle 20:26 affrontiamo questo discorso, ma è Nicola da Bari che interviene. Siamo partiti. In realtà, non è che siamo partiti spiegateci le vostre esperienze sessuali, perché qualcuno si potrebbe stupire. Siamo partiti da un qualcosa che ha raccontato il seriosissimo Fatto Quotidiano nell'edizione di sabato, insieme alla crisi greca, c'era tutti noi questo racconto dettagliato di questo diario della signorina Iris Berardi, su Berlusconi che lo avrebbe preso in quel posto, critiche eccetera, una vergogna, denunce forse anche di Berlusconi alla privacy eccetera eccetera. È il diario di una signorina coinvolta nel processo a Berlusconi sulla falsa testimonianze, che racconta nel suo diario alcuni dettagli sessuali delle sue esperienze ad Arcole. Ovviamente è lei che le racconta, possono essere anche false, tra l'altro lei le romanza un po', no? Perché ci sono anche altri dettagli che io qui Ma tu capisci che è pazzesco che siano, adesso scherzi a parte, ma è il diario acquisito dalla procura, ma è uscite, appunto, ma questa è la follia, è il diario della procura, cioè, acquisita gli atti, è la follia, conto, però io che sono stato un difensore delle intercettazioni, come ricorderai. Ma su questo mi fermo, però. Ma ti fermi che cosa? Perché no, c'è particolare sul dildo, perché se ci fosse un'altra cosa. Ma non è quello, è la fonte di prova che non è che secondo me è arbitraria. Perché è arbitraria, non ho capito. Che c'entra? No, è un diario di questa signorina. Io sono lo stesso, guarda la mia coerenza, di cui non interessa niente a nessuno, ma sono lo stesso che ho difeso le intercettazioni telefoniche. Dopodiché, un conto magari sono le intercettazioni, anche su quello. Questa è una prova, se si prende se uno prende il diario di Cruciani, uno sul diario di Cruciani può trovare. i diari sono anche, ci può essere anche qualcosa di vero nei diari. I diari di Mussolini, ma scusa. No, ma che c'entra? Ma certo, ma non è una, ma cosa, lascia perdere uno l'oggetto della discussione. L'oggetto è un altro discorso. Ho capito, ma io credo che brutto, uno, che è stato preso come fonte di prova, due, che sia finito sui giornali. Ma perché come brutto come fonte di prova? Quello lascialo scegliere agli inquirenti se è fonte perché di prova o no. Mi pare folle. Che ho capito, ma quello lo decidono i giudici, lo decidi te. Ma si discute di tutto, a me a un certo punto mi sembra veramente folle. Il diario di Sberardi non può essere considerato. È come il diario di Laura Palmer di Twin Peaks, è la stessa roba alla fine. Ma chi l'ha Twin Peaks? Ti ricordi Twin Peaks, tu, la serie televisiva? Non riesco a capire qual è il punto. Francamente non riesco che a capire. Mi sembra ridicolo. Se non ci fosse stato questo dettaglio, avresti considerato normale l'acquisizione come prova del diario della signora Iris Berardi. Considero, te lo dico, considero abbastanza strano che un diario scritto da una persona di suo pugno, dove uno può scrivere mille cazzate. E infatti mille va verificato. Ma non in questa parte qua. Non in questa parte qua, ovviamente, di cui non frega un cazzo a nessuno. Ma il problema è capire se lei è stata pagata o no da Berlusconi per stare zitta. Dunque è normale che venga preso il diario come fonte, come possibile prova di una cosa del genere. Possibile prova, poi sarà ai giudici crederci o non crederci. Non capisco. Ma capisci, tra questo e ad esempio i conti correnti, ma non è una novità che escono fuori. Ci sono prove che hanno valore diverso, no? Come tu insegni. Certamente, questo qua, se non fosse uscito fuori il dettaglio. Quindi è assurdo che sia uscita fuori sta roba qui. Ma è assurdo, è normale. Se è acquisita come fonte di prova, è normale, finché non si regola la questione delle intercettazioni in un altro modo, delle prove in un altro modo, di cosa può uscire prima del processo, è un altro discorso. Nicola, non ci hai raccontato però qual è l'esperienza che hai provato. Se non mi fate parlare, vai. La vedo difficile. Comunque, scusa, io volevo dire a Parenzo che ho provato a chiamare a Barisoni ore 17. Ma no, ma non ci sono ascoltatori là. Però, Nicola, qual è la tua esperienza? Non ho capito bene. Ho capito, non so quanto mi possa spingere nello spiegarla, perché è il rischio di essere un po' indiscreto. Ma non ho capito, che cosa hai provato tu? La penetrazione anale col dildo, di che cosa hai provato? No. C'è un'altra metodica, un po' più soft, ma altrettanto sconvolgente, che può essere fatta simulando proprio, senza l'uso di nessun... Vabbè, aspetta un attimo, Nicola. Torniamo un attimo con questa vicenda. Nicola da Bari e le sue esperienze. Ma con chi? Con sua moglie, tutto questo, Nicola? No, io sono poligamo, io non ho una donna fissa. Come poligamo? Non ho capito che significa poligamo. Non sono sposato, non sono fidanzato e quindi, insomma, saltello un po' qui e là. Saltella un po', Nicola da Bari. Se lei piacciono i culi, deve pensare che c'è persone che i culi non gli piacciono. La Zanzara. Allora, lei ha un microfono che l'ascolta una platea enorme, ma insomma, così un pochino, ma che cavolo di contributo lei dà per migliorare la società parlando di culi fuori? Siamo qui, una delle poche isole di libertà in Italia. L'isola non greca, però, No, una delle poche isole di libertà dove si può parlare di tutto, anche di sesso. Si parla di tutto, di politica, di sesso, di qualsiasi cosa. Siamo qui, popolo della radio, con voi, 800 24 0024. Allora, Nicola da Bari, abbiamo un collegamento particolare. Con la Grecia? No, che con la Grecia, no. Con l'Italia. Una persona però molto vicina alla Grecia, credo, in questo momento. Molto vicina con lo spirito, con lo spirito. E magari potrebbe pure partecipare o girare qualche film in Grecia, magari con degli attori un greci. Reportage, dici, adesso glielo chiederemo. Sì, sulla dracma, sì, giusto. Adesso glielo chiederemo. Sì. Però c'è Nicola da Bari che parlava di questa roba qui. Io non ho capito qual è la pratica che lei utilizza con le sue compagne, Nicola. Scusi, Allora, cercherò di essere il più educato e garbato possibile. Per assolutamente, quanto... anche perché c'è qualcuno che ci segnala, per esempio Michele della provincia di Milano. Michele, che cosa ci segnali tu? Michele? Dimmi, pronto, cosa ci segnali? Pronto. Torno, Nicola, un attimo, Michele, dimmi. Sì, allora, io chiedevo, siccome sono un tassista, chiedevo che nella sala lì al 91 di Monterosa, il Sole 24 Ore ci dia dei volantini o perlomeno delle vetrofanie che informi il cliente che quando viene su stiamo ascoltando la Zanzara, perciò non si può... Perché ti è molto fatto. No, no, aspetta, la Michele, non ho capito bene perché è andata via la linea. Probabilmente sei arrivato in una zona poco coperta. Allora, qual è il punto? Devi mettere un cartello, diciamo, noi stiamo ascoltando la Zanzara. Noi tassisti stiamo ascoltando la Zanzara. Ah, come avvertimento, per avvertimento per il cliente. Sì, che no, se vuole scende, se vuole scende. No, scende. No, no, non scende, che scende? Non scende, non scende nessuno, noi non facciamo scendere nessuno. Ascolta. Perché allora, che è successo? Perché che è successo? Ti sto spiegando. Contessa, Monte Napoleone, destinazione Scala. Sì. Contessa. Allora c'era una contessa, Rocco Cifredi, sì, una contessa, contessa. Ma che ne contessa. Sai? Che ne sai che era una contessa? Ora... c'era la chiamata su Radio Taxi, sono del 4040. Cioè Filomena è contessa di cognome? Ma che uno si presenta come contessa? Cioè, no, no, Filomena contessa, va vabbè. Bene. Allora, Monte Napoleone Scala. Sì. E alla radio salta fuori l'intervento di Rocco Cifredi, che praticamente lui rimane colpito e in modo piacevole, che la compagna praticamente lo, come stai dicendo tu, penetra nel rapporto. Ma non mi ricordo questa cosa, è nelle innumerevoli interviste al signor Cifredi. Sì, comunque, sì. Vabbè. Allora... praticamente tu devi solo vedere la faccia che ha fatto la contessa, tutta bella impellicciata, tutta bella profumata, tutta bella cosa, con il suo uomo che praticamente si erano quasi un attimino imbarazzati loro, ma io mi ero diventato piccolissimo e mi ero nascosto nella macchina praticamente per non farmi vedere più nella macchina. E i signori invece? Allora, i signori contessi? I signori conti? I signori sono scesi e secondo me quando sono tornati a casa hanno fatto delle prove, cioè secondo me hanno voluto testare, secondo me, perché la cosa incuriosisce. Cioè non ho capito, poi sera questa qua era la contessa o si chiamava contessa di cognome? Io questa cosa non l'ho ancora capito. Era una contessa insieme al consorte Conte. Sì, allora dico, beh sì, ti dico solo il nome Filomena, poi sì, però no, è una buona idea quella che hai dato, però Michele, io ma credo sì, che sia una buona noi, idea noi cioè, quando passiamo da Monte Rosa 91 noi ci segniamo, noi ci no segniamo, però lascia facciamo... perdere Monte Rosa 91. Il punto fondamentale è questo: credo che ci sia bisogno per i signori tassisti di una cosa da mettere come adesivo là sopra. Bravissimo, no? Stiamo sì, ascoltando un avviso, la Zanzara, sì, come bimbi a bordo uguale la sì, Zanzara. Sì, bravissimo, bravissimo. Allora Nicola, poi andiamo all'ospite. Nicola, vai. Allora, qual è la come dire, allora sì, innanzitutto volevo fare soltanto comunicare un piccolo dettaglio. Allora, il massaggio prostatico sì. Deve essere fatto in modo preciso. A me lo ha insegnato una signora maestra di massaggio tantrico e serve esclusivamente per dare sì. maggiore vigore alla virilità maschile, insomma. Ho capito benissimo, ma io non ho capito una cosa che lei pratica, però vada in maniera sì, sintetica, Nicola, sì, mi dica. Sintetica. Allora, a me è capitato in uno dei miei giri in Salento, sì, sì, in Salento, di trovare ad un certo punto questa ragazza meravigliosa sì. Che mentre eravamo lì, insomma, un po' annoiata per la insomma la routine, a un certo punto mi dice: girati, ti voglio prendere. Però non aveva, cioè, era una donna, no? Quindi non aveva oggetti, non e aveva allora? Nulla. Niente. E allora mi ha spiegato insomma di mettermi in una posizione tale sì. che la parte che fuoriusciva di più dalla sua, diciamo, farfallina potesse colpire il mio vabbè, diciamo... ma ho capito, ma quella è una roba così, uno strusciamento, dai, ma che non è uno strusciamento, sono vabbè, Nicola, ma stiamo entrando in un dettaglio che è anche inutile, diciamo, perché siamo partiti da Iris Berardi e Berlusconi. Forse per lei, Cruciani, forse per lei. Però, insomma, no, ma ho capito, però adesso io non capisco cosa l'ha spinta a telefonare, diciamo, per no, raccontare questo aneddoto, Nicola, questo... la saluto, arrivederci. Mi lascia perplesso. Vabbè, io direi che c'è un maestro però di tutto questo discorso. Si chiama Valentina Nappi. Cara Valentina, come stai? Come stai? Ciao, tutto bene. Vedi che qui si vola altissimi. Altri si livelli, vola altissimi. Allora, però torniamo un po' a parlare di cose serie, perché non è che adesso Valentina Nappi e la penetrazione anale subita dagli uomini mi sembra anche banale. Cioè, no, si sta discutendo. Ci sono molti uomini che praticano questa cosa. Immagino nella tua esperienza. Lascia perdere l'esperienza da porno. Forse più uomini che donne. più uomini che donne. Cioè, hai capito? Dunque non ti stupisce che il signor Berlusca, per esempio, secondo i racconti della signorina Iris Berardi, abbia subito questo tipo di pratica, il signor Berlusco? Subito, nel senso no, subito, nel senso un piacere. Un piacere, sì, in senso positivo. Richiesto, non in senso ma richiesto. Sì, ma tante cazzate che ha fatto, almeno quella di farsi inculare la colta. Ecco, la sintesi 20-43. Però devo dire signora, la verità, sì. No, questa qua è molto bella. Con tante cazzate che ha fatto, quella almeno di farsi inculare. Almeno quella, una giusta ne ha fatta, giusto? Una giusta ne ha fatta. Beh, qui siamo veramente veramente al top. Direi che questa qua è una battuta che può chiudere il cerchio su questa vicenda di Berlusconi di Sberardi. Ma tu facevi il tifo per la Grecia, Valentina, scusami. Allora, la politologa, prezzo, noi abbiamo qui. No, questa storia del referendum sì. È molto molto complessa. Diciamo che comunque la proposta era inaccettabile, quindi mi sento sollevata da un lato che ha vinto il no, però dall'altro adesso dobbiamo vedere cosa succede. Vabbè, quello, però io non avrei, cioè, a differenza di tanti altri, non ho detto nulla, cioè, non ho, come tanti altri su Facebook hanno scritto no, ma deve essere no perché bla bla. Io non me ne intendo. Non te ne intendi. Però facevi un po' il tifo. Non riesco a dare la mia opinione. Ma quando è che riparti per gli Stati Uniti? Adesso parliamo di altre cose. A brevissimo, per girare altre scene? Sì. Beh, siamo ormai lanciatissimi, Siamo ormai lanciatissimi, o no? Beh, ho sempre il visto, quindi posso andare e venire un po' quando mi pare. Ma è sempre quello il film, è sempre lo stesso? No, film, non ci sono film, pare no, ancora. Come te lo devo spiegare? Te l'ha già spiegato una volta? So, non esiste un film, esistono le scene che vengono girate. Delle scene, insomma, sì. Non esistono più. I film non esistono. Stiamo cominciando a dire qualcosa di realtà virtuale. Come? Abbiamo. Mi hanno chiamata e io sono andata. Ho girato qualcosa in realtà virtuale. Come virtuale? Che vuol dire virtuale? Quindi tu infili gli occhialini e puoi alzare la testa, muoverla in tutte le direzioni e vedrai sempre qualcosa. Cioè, finto. Che ovviamente è un porno. Quasi però, in 3D, insomma. Secondo me è carina, può essere il futuro. Cioè, non c'è bisogno di fare l'atto vero e proprio. Pronto? No. No, no. Non, magari in futuro sì, arriveremo a una realtà virtuale così raffinata che non ci sarà differenza di esperienza tra un rapporto vero e uno virtuale, quello simulato, diciamo. Però diciamo, ti hanno proposto di fare qualcosa di virtuale da questo punto di vista. L'ho già girato qualcosa di realtà virtuale, anche se secondo me la tecnologia non è pronta. Senti, ma se ti dessero dell'oggettina, tu come reagiresti? Hai letto questa cosa dell'oggettino in questi giorni, no? I ricatti a Berlusconi, 7 milioni di euro, 10 milioni di euro. Preferisco dedicare il mio tempo a cose più interessanti. È la cronaca, eccetera. Cioè, è meglio fare la pornostar di un'oggettina? Cioè, è meglio fare la pornostar? Beh, che... assolutamente. Puoi mettere tra andare con Berlusconi e farlo con Flash Brown, scusami. Scusa? Chi è il signor Flash Brown? Chi è il signor Flash Brown? Flash Brown. Chi è il professor Flash Brown? Non conosco questo columnist. È un mio collega. Flash Brown. Detto Flash Brown. Scrive sull'Huffington Post. Sicuramente guadagna più l'oggettina che io, anche Flash Brown. Però noi ci divertiamo di più. Facciamo anche qualcosa di più progressivo. Di più progressivo, cioè se più sempre con questo Flash Brown. Figa. Okay. Come? Quindi andiamo contro le oggettine. Ah no, ecco, questa è una differenza fondamentale. Andate contro le oggettine in che senso? Cioè che allargate... Nel senso che comunque la pornografia ha contribuito ad abbassare il mercato della figa. Nel senso questa che è una cosa economica. Stare dietro una, vaffanculo, sto a casa... mi faccio una sega, mi guardo un bel porno. Ho capito. Cioè, è una teoria economica. È una teoria economica interessante. Strano che alla Bocconi questo non la spiega, perché se spiegassero dovrebbero. No, ma infatti dico dovrebbero. Se alla Bocconi lo spiegassero così, forse diventerebbe tutto più facile, tutto più comprensibile. Alla Bocconi no, però un'università della Florida lo ha fatto. Assolutamente, guarda che sarebbe tutto molto più comprensibile. Spiegato cioè, così ed è esattamente il contrario delle oggettine, dici tu, no? Cosa? Ed è il contrario delle oggettine, dici tu. Fare porno, sì, assolutamente. No, è il contrario dell'oggettino, dunque, diciamo, è il mercato ne trae giovamento, o no? Allora, no. No, ho sbagliato tutto. No, allora, contrario. La pornografia abbatte il mercato, la figa no, però aiuta a far sì che la siga abbia un prezzo minore. Un prezzo minore, che abbia... è una questione di mercato. Sì, no? Abbia un prezzo, cioè, minore. Ce n'è, sì, tanta, e sì, quindi si svaluta sostanzialmente, no? Sì, esatto. No, no, in realtà ce n'è poca. Quindi non è che ce n'è tanta. No, cioè il grande mercato della pornografia. Grazie al porno, cioè, no, ragazzi, ci stiamo confondendo. Cioè, no, no, io ho capito così. Capito. La sua teoria economica, signor Rapi, se non ho capito male, è che siccome è talmente vasto questo mercato della pornografia, sì, no, no, allora non c'entra nulla nel mercato della pornografia. Non c'entra niente, vedi, non hai capito niente nemmeno te. Avevo capito così. Riccardo, no, mi stava chiedendo se fare porno, Giuseppe, come, sì, fare l'oggettino. Sì, esatto. Okay. Assolutamente. No, dice no, molto meglio, molto meglio. Io vado con Flash Brown e non, sì, con Berlusconi. Moltissimo. Questa, certo, era una certezza che avevo. Perché è un ragazzo stupendo e sa anche fare le cose che deve fare. Assolutamente. Viene pagato come vengo pagata io. Sì. Quindi c'è anche una storia di parità dei sessi. Di parità dei sessi. Perché siamo sullo stesso piano, siamo due che vengono pagati allo stesso modo. Dobbiamo trattati allo stesso modo. Sì. E ci divertiamo insieme. Sì. E sono dei due, diciamo, potente, ricco, dell'altro. Non c'è potere, siamo sullo stesso piano. Ma anche se nel caso di Olgettini e Berlusconi è difficile capire chi è succube. Adesso lo cerco, così, il Flash Brown. No, cioè, allora, in realtà, anche se sei quello inculato, finché paghi, sei quello che ha il potere. Quindi... Vabbè, allora, insomma, dicevi, allora, dicevamo... Tra l'altro, dato che io e Flash Brown produciamo porno... Arriviamo a far sì che il mercato della figa si abbassi. Perché? Signor Flash Brown, signor Riccardo, anziché stare dietro una e invitarla 10 volte a cena per una scopata, una di queste si dice vaffanculo, non ci esco con questa. Sì, a, sì, casa mi faccio una figa. Esatto. Dunque, è inquietante. E quindi le donne sono, diciamo, più spronate a far sesso. Capito? Perché altrimenti non se le caga nessuno. Capito? Non possono, che poi alla fine vogliono scopare anche le donne, semplicemente che loro vogliono usare il potere, magari lo fanno in coscienza, il potere della figa, magari lo fanno in coscienza. Vabbè, insomma, è un ragionamento questo complesso. Detto molto in soldoni, insomma, in soldoni. In soldoni, sì. In soldoni. Sì. Dovrebbe essere spiegato in un consesso universitario questa cosa. Comunque, è stato fatto, c'è, cioè, una ricerca dell'Università in Florida. Della Florida. Comunque a te le oggettine, il mercato della figa, sì, meglio, spiega i rapporti uomo-donna. Sì. Sì. In termini economici, per rapporti uomo-donna non si intendono quelli a pagamento, quindi la prostituzione. No, no, certo, certo. Ma proprio i rapporti uomo-donna. Uomo-donna. Analizzeremo. A te le oggettine un po' ti fanno schifo, diciamo la verità. Sì, mi fanno assolutamente schifo, sono le fighe di legno al quadrato. Addirittura, fighe di legno. Quelle che vanno con Berlusconi, fallo con l'operaio per 50 euro, fallo con chi ha bisogno. Cioè, fallo con chi ha bisogno. No, invece devi andare con i potenti per avere il soldo in più, però ti fai... Vabbè, farsi le borsette, gli appartamenti, gli studi in alcuni casi. E vabbè, ma sono cose normali, però. No, sono cose che fanno schifo, perché un ragazzo non può fare lo stesso. Vabbè, ho capito, ma il ragazzo non può vendersi per pagarsi l'università, e questo è triste. Ma non è vero, sono più iscritte che iscritti. Ma io sono d'accordo, signora, dovremmo farci delle domande. Ma secondo me ognuno sfrutta quello che ha, dai, su Valentino, ognuno sfrutta, quelle sfruttano, le conoscenze. Non è giusto che soltanto perché tu sei nata con la figa puoi sfruttarla e io che ho il pisello non posso. Ma no, brava, ma succede anche di opportunità. Di natura. No, è come quello che nasce ricco e l'altro che nasce povero. Vabbè, ho capito, è un'ingiustizia. Bisogna prenderne atto. È la realtà, però. Vabbè, ti saluto, ti abbraccio. Schifo. Ogni tanto fa anche schifo, però è la realtà. Ti abbraccio, a presto, ciao. Ragazzi, ci sentiamo domani 18:30. Tra tante cazzate che ha fatto, almeno quella di farsi inculare l'ha colta. Uno è giusto, ne ha fatto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.